chiara la mia notte. Grazie perché sei con me. Ed il tuo amore riscalda il mio cuore, adoro te, adoro te, adoro te.